Ed eccoci qua, come avevo preannunciato, non abbiamo la palla a due di Paolo che salutiamo, magari arriverà Pietro Rossi. Eccolo qua, ho alzato gli occhi e si palesa in diretta, certo, eccoci qua. Ti apro il microfono in questo momento se vuoi riportare i saluti. Al foto finish, buongiorno a tutti. Arrivato per lo starting five, ci sei e come, non parti dalla panchina ma da subito. No, poi manca Paolo, il sesto uomo dell'anno, lo vinco oggi, non lo vinco più. Immagino condizioni di traffico non indifferenti. Sì, io mi sento sempre come un tiratore che prova a fare tagli su tagli e prende sempre il blocco di quello che pesa 30-40 kg più di lui e finisce in terra. E non riesce a ricevere. Questo è il mio rapporto con il traffico di Bologna la mattina. Non riesce a ricevere. No, no. Anzi, stai per terra e il bloccante ti fa: cosa volevi fare? E che pensavi? Muto. Silenzio! Però i movimenti senza palla indubbiamente sono buoni. Sì, sì, su quelli, anche perché il ball handling... Di anticipare l'avversario, hai capito? Noi abbiamo sempre diversi motivi di conversazione da riportare poi tra pallacanestro, attualità, e ogni volta però, caro Pietro, vengono rimandati oppure ridotti purtroppo dalle costanti scomparse e saluti che stiamo trovando e che secondo me, oltre che umanamente dispiaciuti, anche doverosi per la storicità della pallacanestro. Una pallacanestro che negli anni 70, come già abbiamo analizzato e condividi con me questo periodo di pre-rivoluzione cestistica, ha visto una lega che ha lasciato grande curiosità, la famosa ABA, la palla tricolore. Esatto. È uno dei motivi tra i tanti, la spettacolarità, le squadre, le franchigie, per meglio dire, con questi nomi, i Kentucky Colonels, i colonnelli del Kentucky o tanti altri. Pure fraintendibile, certo, in tempi moderni. ma loro assolutamente volevano portare anche una sorta di provocazione, sì, in tutto, certo. Questo se io dovessi fare uno starting five di questi atleti nella ABA, indubbiamente porterei come power forward, come numero 4, un atleta recentemente scomparso, rispondeva a nome di George McGinnis, arriverà anche nella NBA, nei Philadelphia 76ers. Appena arrivato porterà una finale insieme a Julius Irving, insieme a Ward Beaufrey e altri grandi campioni, e gli avversari però non erano esattamente morbidi, ma i grandi poi Portland Trail Blazer. Philadelphia non porterà l'anello, ma arriverà il primo anello in Oregon per la franchigia di Portland, i Trail Blazer. Scoppierà la Blazermania, il centro bianco secondo me più forte di tutti i tempi, se non fosse per queste ginocchia di cristallo. Bill Walton sarà MVP e giocatore dominante, non solo ovviamente, tanti altri grandi campioni vicino a lui, Lionel Hollins, Maurice Lucas, insomma una squadra veramente molto molto completa e forte. Ciò non toglie che gli avversari dalla Pennsylvania vedevano in George McGinnis, seppur a fine carriera, un atleta molto importante. Il suo massimo splendore lo ottiene a Indiana, nella ABA. In seguito sarà All-Star per tutte le stagioni della ABA. Vincerà la classifica realizzatori, un'ala forte completa, grande qualità tecnica anche fronte a canestro, in avvicinamento a canestro, realizzatore, carisma, movimenti senza palla, intelligenza cestistica, finalizzatore, ma anche grande rimbalzista. È stato realizzatore eccezionale, è stato rimbalzista importante e indubbiamente un giocatore che, se dovessi fare un quintetto base tutti i tempi nella ABA, la posizione numero 4 indubbiamente sarebbe occupata da George McGinnis, per il quale mi sa che sei un pochino troppo giovane. Sì, McGinnis mi manca. So che faceva parte appunto di quei Sixers di Dr. J, però appunto mi fa venire la domanda: se te pensi all'ABA, chi ti viene in mente più rappresentativo di altri. Io penso a Dr. J. Julius Erving, okay. Indubbiamente il più grande giocatore NBA di sempre. Lo metto come coppia di ali che poi saranno a Philadelphia, Julius Erving e George McGinnis. Come centro Artis Gilmore, come guardia tiratrice il grande George Iceman Gervin e il portatore di palla James Silas, che arriverà anche lui ai San Antonio Spurs. Sai che io faccio sempre questo gioco immaginario. Beh, giusto, anche perché si gioca in 5. Capito? Caratteristica di McGinnis che lasciava un pochettino per la contemporaneità, questo tiro che concludeva a una mano sola nella maggior parte dei casi. Per me esteticamente era molto affascinante, era una peculiarità se vogliamo, ecco, non era la tipica conclusione che pare accompagnata e diretta con tutte e due le mani, no, lui staccava la mano sinistra molto in anticipo e sembrava un tiro portato con una mano sola, con un gioco di polso esteticamente perfetto e bellissimo. Anzi, se volete imparare l'uso di conclusione della mano destra dal gomito fino alla punta del dito indice, guardate qualche video di George McGinnis che è perfetto. Alcuni nella mia recensione hanno detto sì, ma il tiro era veramente inguardabile. Questo è opinabile perché la pallacanestro d'epoca lascia anche questa capacità di avere un gusto personale. Del resto anche Picasso non era un grandissimo disegnatore, però direi che come criticarlo? Beh, se non sbaglio, McGinnis, miglior marcatore NBA un paio di anni, sì. Se non tre addirittura, sì. Quindi dominante, cioè, no, lui è stato giusto. Volente o nolente, mettere dentro la metteva dentro. Sì, appunto che dico, poi l'estetica certamente a me personalmente piaceva tantissimo, però comprendo anche chi ne ha motivo di critica. Assolutamente, per me potrebbe giocare anche ai giorni nostri per quel poco che ho visto, in quanto anche le capacità realizzative fronte a canestro e l'aspetto atletico erano molto molto molto forti. Scompare di recente l'ala degli Indiana Pacers in seguito ai Philadelphia 76ers, resterà sempre in mente ovviamente alle appassionate e agli appassionati di pallacanestro NBA, NBA All In My Mind è il brano che vi propongo come primo stacco musicale e poi rientreremo, perché purtroppo i saluti non sono finiti qua. Purtroppo. I know. Visita al museo in sala borsa oggi pomeriggio? Ce la fai o sei impegnato? Oggi questa pomeriggio. Diretta così, la vita è in diretta per appuntamenti tra arte e basket. Ma lo sai che inizio a lavorare alle 6, quindi perché no? Perché no? La nostra nostra Spoon River cestistica, ed è ovvio, come ho detto più volte, ma non sto andare in approfondimento ulteriormente, alcune riflessioni arrivano. È un ragazzo, perché è classe 1972, è stato scelta assoluta del 1994, prima per i Boston Celtics, numero 9 overall, cioè assoluta. Viene da Tarrell, North Carolina, con il quale vince anche un titolo. È il tipico centro bianco, eh. Lui è il tipico bianco, il centro bianco. Non delude lo stereotipo. Sì. No, non delude lo stereotipo del centro bianco. 2,12, taglio alla Marines, per dire, un fisico eccezionale. Un centro difensivo importante che a livello NCAA ha fatto oltre che la differenza. Sinceramente ci si aspettava tanto, tanto, tanto di più nella NBA. Avrà una prima stagione dove sarà inserito nel secondo quintetto dei rookie per la stagione 94, ma nello stesso tempo, anche se nello starting five di una Boston che stava pensando alla ricostruzione, purtroppo non sarà all'altezza delle aspettative. Andrà a malapena in doppia cifra, prende 8 rimbalzi a partita, gioca col numero 0, che lasciava anche presagire buone speranze, perché il doppio 0 era il grandissimo Robert Perry. Pazzesco, no? Sì. Vedo che stai leggendo, hai trovato motivi di approfondimento su Eric Montrose. Beh, lui è, come dire, è parte di quel periodo super sfortunato dei Celtics, che segue la morte appunto di Lewis e poi, volendo, la fine della dinastia di Bird, che si ritira nel 93. Lui, poverino, è proprio protagonista di quei primi due anni dove Boston prova a rimettere i piedi nell'acqua, non ci riesce perché Boston non riparte fino fondamentalmente al 2007, al 2008. Certo, adesso io seguivo già meno, per cui io ricordo un aspetto molto devastante per Boston e per la vita di un giovanissimo ragazzo che non vedrà mai la NBA, che è Allen Bias. Ancora prima, sì. Ancora, esatto, prima. Esatto. Da lì poi in avanti ci sarà una debacle, una ripresa successiva che io ho semplicemente assistito dal punto di vista di cronaca e informazione, che arriverà verso il 2008. Esatto, che è il titolo dei Big Three, sia di Garnett, Allen e Pierce. Secondo me, conoscendoti, non i Celtics più simpatici della storia, non molto quella classe da Celtics lì mancava un po'. È venuta a mancare. Sì, perché tra l'altro ricordo una finale con i Los Angeles Lakers. Due finali. Ah, due. Fanno finali. Nel 2008, che è la prima finale di Bryant dopo il periodo con Shaq, con Shaquille O'Neal, e Boston stravince. La serie finisce 4-2, però è un 4-2 falso, poteva benissimo essere 4-1. Sì, risultato mentitore, se vogliamo. Nel 2010 i Lakers vincono a gara 7, una tirata. Serie, se posso, brutta, ecco. Una serie veramente brutta. Sono gli anni, sì, poi che daranno via un basket orrendo. Si parlava, io e Willy, qualche giorno fa delle ere di mezzo proprio da un punto di vista cestistico. 2010, 2009, 2008... ma in generale tutto il primo decennio dei 2000 mantiene, salvo alcune eccezioni, un rigurgito degli anni 90, quindi sì, è la conferma, esatto, della decadenza. Esatto, assolutamente, quindi ritmi lenti, certo, tanto che gara 7, ovviamente una gara 7, quindi no, tensione e quant'altro, ma finisce ai 70 punti. Mamma mia, calvando Bryant, poi i tempi più estesi nella palla. Esatto, e anche un campo più largo, perché banalmente, certo, no, regole diverse, spaziature diverse. Bryant, Kobe Bryant, finisce gara 7 con 24 punti, ma con 6 su 25 al tiro, 6 su 24 al tiro. E se finisce così, uno come Kobe Bryant, indubbiamente delle motivazioni di critica ce ne sono. Eric Montrose purtroppo scompare in questi giorni, mi pare ieri l'altro, questo lungo bianco, fisicamente veramente molto molto dotato, prima scelta dei Boston Celtics 1994, e purtroppo la nostra Spoon River vede il Moved Groove tardare nel motivo di argomentazione principale per la giornata odierna. Tra virgolette, beh, parleremo di grande pallacanestro, ma magari con un aspetto non certo diventato così mesto, se vogliamo. Intanto salutiamo Irma, è il nostro la mascotte della radio. Altro che mascotte, in questo caso nello Starting Five da protagonista per questo Move to Groove. Con i Soul facciamo uno stacco musicale, Tell It Like It Is, e poi si rientra e magari inizieremo a parlare, oltre che per quanto riguarda gli auguri di buon Natale e buon inizio 2024, anche, udite udite, di giocatori sexy. Quindi ci sarà un po' di non pesce. Siate maliziosi, bravo, ecco. Pensa a giocatori sexy, immediatamente un po' di pepe, la malizia immancabile, però insomma la puntata è orientata in maniera completamente diversa, tanto più che la colonna sonora, tema che ho portato, è quella colonna sonora che chi così ragiona in maniera molto primitiva, neanche primaria o primitiva, direbbe: oh, ma questa è la colonna sonora di un film porno. No, non è la colonna sonora di un film porno, è semplicemente una nota molto raffinata che mi tocca dire al quale non sei abituato, non sei avvezzo, come quelle di George Benson, di Grover Washington Jr. che forse nella sei playlist. Più avvezzo a quello dei film porno. È più avvezzo a quello dei film porno, visto che lo riconosce così anche se non c'entra niente, ecco. Allora io direi di iniziare così, assolvendo, risolvendo quello che è la parte tra i giocatori sexy un pochettino più maliziosa. Sylvester Grey, mi chiedono molte volte perché a un certo punto troviamo dei pantaloncini che arrivano fino al ginocchio. Si dice che questi pantaloncini siano stati introdotti per coprire le intimità di Sylvester Grey. Miami Heat, giocatore eccezionale, giocatore alla guardia, fisica veramente molto forte. Arriva in Italia nella Stefanel Trieste, diciamo che questa madre natura particolarmente generosa ha creato nelle leggende metropolitane anche qualche problema a Sylvester Grey, ma non approfondisco tutto ciò. I giocatori sexy non finiscono qui per quanto riguarda determinate caratteristiche, anzi ve ne sono diverse, potete ben immaginare. Parleremo, riunite Reggio Emilia, Dale Solomon. Non entra in NBA Dale Solomon, è il tipico atleta della pallacanestro che in A2 un tempo, siccome la differenza tra italiani di B1 e atleti di A2 non era così particolarmente, il gap non così evidente, cosa consigliavano? Beh, prendete due americani, un 4 e un 5, che abbiano nelle loro mani 20 punti ognuno e 20 rimbalzi ognuno, e sicuramente almeno la salvezza la ottenete. E infatti è stato così, potrei citare tantissimi nomi. Tra questi nomi, che alcuni sono state conferme, non so, Mark Crow, Al Bill per Fabriano, Lee Johnson, giocatore sexy, e Rudy Woods per la Febal Napoli. Joe Bryant arriverà in Italia e Dan Gay insieme nella Sebastiani Rieti, con italiani certamente importanti, ma italiani che potevano fare una B1, e per avere la salvezza, essere certi, prendete due stranieri che hanno due USA, due colored, che abbiano delle caratteristiche caratteristiche importanti che fanno della legna, abbiano punti e rimbalzi nelle mani, così avete la sicurezza per quanto riguarda l'aspetto di salvezza tra A1 e A2. Viene consigliato questo Dale Solomon. In effetti Dale Solomon è fortissimo, è un giocatore, è un attaccante, è uno che ha tanti punti nelle mani, è molto concreto, può aiutare anche a rimbalzo. Ecco, ricorda George McGinnis, per dirti, hai capito? Unica cosa, i suoi manager e i dirigenti quando presentano, e qualche dubbio, lui non ha mai giocato in NBA, però assicurano che è fortissimo, no? Dicono unicamente, guardate, ha tre caratteristiche. He hits, he sleeps and he fucks. E si narra di questo appetito clamoroso di Dale Solomon, che tra l'altro era anche molto ricercato, c'era spesso una presenza molto costante. Allora, per ridere, da Reggio Emilia si diceva: avete messo la chiocciolina col numero per le presenze? Tipo dal Salumiere. Tipo dal Salumiere. No, tranquille, tranquille. Dale Solomon ha detto che oggi si sente particolarmente in forma. Quindi lui mangia, lui dorme e lui fa l'amore. Ecco. Noi intendiamo altro per giocatore sexy, indubbiamente. Intanto metto un brano sexy, se vogliamo, che è quello di Lonnie Smith e George Benson con It's Changed, un brano veramente molto bello, nello stesso tempo raffinato e accattivante. E di giocatori sexy come li intendiamo noi saranno dopo la pubblicità qua al Move to Groove. Sei d'accordo? Facciamo così, dai. Thank you. Allora, il musicista più sexy, per come lo intendo io, è Grover Washington Jr., oltre che autore della nostra sigla Mr. Magical Move to Groove, dedica un pezzo che sentiremo anche a Julius Erving con Let It Flow for Dr. J, qui con interpretazione di Jam di Bob Marley nel tema assolutamente vellutato e melodico, poi si stacca e parte con un'improvvisazione alzando le note a dei livelli oltre che stellari, con un gusto sexy. Pensa che tutto ciò nasce dal tuo J.J. Anderson, esatto, che hai portato, esatto, nella prima puntata sul Granducato di Toscana, dove Paolo Onofri, J.J. Anderson era un giocatore sexy e poi non ha approfondito cosa si intende per giocatore sexy. Ma partendo dal presupposto che esiste una dimensione di soggettività, per me il giocatore sexy è colui il quale è capace di innanzitutto muoversi bene sul campo, con e senza palla, che sia fluido nei movimenti, e questo vuol dire che abbia un tiro che non necessariamente scolastico da un punto di vista di meccanica, ma appunto fluido. George McGinnis, per esempio, come citavi tu prima, che fondamentalmente dia quella sensazione di leggerezza, che poi gli statunitensi hanno questo termine bellissimo che è flawless, esatto, senza, let it flow, tra l'altro, senza fronzoli, che appunto riesca a impattare su una partita in un modo che non sia fondamentalmente pesante, quindi, no, volendo anche in un rimando numerico, un'efficienza statistica, 20 punti non li fai con 30 tiri, ma li fai con 18. No? E soprattutto una bellezza estetica, esatto, che sì, dal, sì, pubblico, quello centrale, si dice, sembra stia danzando. Vi lascio ascoltare l'assolo dove stacca dal tema, che è... l'eleganza, quindi insomma in certi casi però deve diventare concretezza. In Grover Washington lo è, in J.J. Anderson lo è stato, ma anche in altri atleti, alcuni li citiamo, anche nell'NBA considerato sexy per motivi anche altri di cui abbiamo portato nota in precedenza. Stiamo parlando di Reginald Reggie Theus dai Sacramento Kings, in precedenza lo stesso Theus, importante per i Chicago Bulls, arriverà a fine carriera a Varese. Giocatore eccezionale, portatore di palla, sfiora, anzi va oltre i due metri. Si dice che a University Nevada Las Vegas le ragazze seguissero la ruota di riscaldamento tirando pallottole di carta con dentro il loro numero di telefono. Questa è un'altra leggenda. In effetti uomo molto bello, molto bello, molto bello, stiloso anche, non solo in campo, certo. Ecco, la polemica nasce perché lui indubbiamente non è certamente un reazionario, anzi una rivista gay chiede: possiamo avere alcuni scatti che ti vengono ritratti sia sul campo o vestito in maniera elegante, nulla di peccaminoso, chiediamo solamente di poter pubblicare alcune tue foto in quanto uomo molto bello. Lui dice: certo, e come, beh, ci mancherebbe, e così sarà. E ovviamente la polemica dalla società, poi in quel periodo, in quel periodo subito, foto di Reggie Theus su settimanali gay, ma questo ovviamente non ha influito sulla sua carriera. Portatore di palla, una visione di gioco incredibile, un giocatore che può essere abbinato a Sugar Ray Richardson, uno di quei playmaker alti, una mano eccezionale, una capacità anche di essere realizzatore giocatore come al contempo uomo franchigia, la bellezza estetica nel movimento, movimento senza palla, possibilità di giocare guardia come da playmaker. Beh, io direi proprio che Reggie Theus può stare nel nostro quintetto sexy, e tu lo ricordi a Varese tra l'altro, probabilmente. Sì, poi Reggie Theus, secondo me, come abbiamo ricordato tempo fa, ha questo aneddoto meraviglioso del fatto di aver fatto impazzire Michael Jordan per sempre motivi di cuore, quindi legati, no, un po' anche all'essere sexy, che ha fatto impazzire il buon MJ quando un Reggie Theus a fine carriera a New Jersey, prima di sbarcare in Italia d'oltreoceano, batte Michael Jordan fondamentalmente, o meglio batte Michael Jordan, i Nets battono i Bulls, e si dice appunto che Jordan non l'avesse presa bene proprio per quel motivo lì. È per un motivo di questioni di cuore, esatto. Un love affair in cui Reggie Theus in questo caso ha avuto la meglio su MJ. Su MJ. Grover Washington Jr., sottotitolo For Dr. J, traduzione lascialo scorrere, lascialo fluire. Dr. J, giocatore sexy, indubbiamente. E poi, come abbiamo detto di Reggie Theus, tanti ne sono. In Italia, uno che per me, che invece sono, se vogliamo, sono stato, lo ammetto. Esatto. Lo ammetto. Diamo, diciamo, a Cesare quel che è di Cesare. A suo tempo un giocatore sexy, cioè quell'atleta che anche negli anni della Serie D o della promozione, se poteva, schiacciava, la stoppata, la capacità di essere accattivante con un no look pass oppure con un tiro da tre punti inaspettato ma che veniva poi realizzato a volte, e allo stesso tempo comunque se tutto questo può essere trasformato in una capacità concreta, anche se indubbiamente per quanto riguarda l'aspetto sexy con attinenza è più, come si dice nei posti che frequento nel weekend, è più un mandolone, cioè è un mandolone, non se ne rende conto di quello che sta capitando intorno a lui, per lui c'è il ballo, è un po' un mandolone. Andrea Dall'Amore era un giocatore sexy e nello stesso tempo un mandolone, se vogliamo, ecco. Però invece, per continuare in oltreoceano in intersezione con l'Italia, per me il sexy, scusate questa pausa radiofonica dove ho tratto un sospiro di innamoramento, per me era Darren Day, giocatore, beh, ma quanto è facile la pallacanestro guardando un giocatore come Darren Day? È un aspetto, ma come? Giocare a basket in fondo è facile se vedi giocare. Caratteristica dei giocatori sexy è guardarli e pensare, vabbè, ma alla fine non è così complesso. portare palla direttamente dal rimbalzo difensivo, visione di gioco da playmaker, ma conclusione da realizzatore, finalizzatore in avvicinamento a canestro incredibile, buona mano, ottima anche dalla distanza, la visione di Darren Day, l'intelligenza cestistica, la continuità e anche la bellezza estetica l'ha portato, secondo me, a essere USA nella squadra italiana più forte di sempre. La Scavolini Pesaro con i due titoli al suo fianco, Darwin Cook playmaker e i due lunghi italiani Magnifico e Costa. Una formazione incredibile, Pietro, una formazione completa sotto ogni punto di vista. Allenatore Bianchini, quel Darren Day è stato qualcosa, secondo me. Hai notato che stiamo citando in questa selezione, tra l'altro, adesso il sax di Grover Washington sta toccando delle vette veramente molto sensuali, ma abbiamo citato delle guardie, dei tre, degli all around player, tu hai citato un lungo per quanto riguarda il giocatore sexy, Daryl Dawkins. Ah, Daryl Dawkins, sì sì, assolutamente. Come lo riassumi anche lì? Io lo amo. Fantastico. L'ho amato. La mano, sì. No? La leggerezza, questo secondo me sui lunghi, come dire, quasi rubano più l'occhio i lunghi sexy rispetto ai piccoli, sì, sexy, perché hanno questo tocco che non ti aspetti da questi corpi. Parlavamo sempre con Willy qualche giorno fa di Artis Gilmore, quanta leggerezza possa esserci in un corpo che poi leggero non è. Sono dei tralicci fondamentalmente. Però Daryl Dawkins tra questi, il muoversi, questa leggerezza spalle a canestro, quindi anche riprendendo quello dicevamo prima, il muoversi senza palla, il saper prendere posizione spalle a canestro, questa facilità che te li guardi e pensi vabbè, ma allora questo sport non potrà essere così complesso, e invece... Sai perché sei nello starting five del Move to Groove e come? Perché su Daryl Dawkins l'immediato, l'analisi immediata, vedi, allora 2'11, un fisico, io l'ho conosciuto di persona proprio, è due volte me, un fisico eccezionale. Per gli ascoltatori Willy non è piccolo. Ok, allora, tu immaginati questo pilastro enorme, uomo di una gentilezza a dispetto di quello che si dice, no? Fosse indisciplinato, no, assolutamente. E questo rappresenta molto la sua presenza in campo. È Daryl Dawkins, baby gorilla, tuono di cioccolato, tante critiche. Ti immagini uno che ha solo fisico? No, Daryl Dawkins aveva una mano e una capacità offensiva di movimento incredibile. Unisci tutto questo a doti atletiche come l'elevazione nella stoppata e nello schiacciare. Certo, non ha ottenuto i risultati voluti, l'abbiamo visto in Italia, ha regalato grandi sogni anche in Italia, ma per me resta un giocatore assolutamente sexy, te lo confermo. E lui tra l'altro da 4-5 metri la metteva con ottima mano, ottima mano veramente morbida. Siamo arrivati agli auguri di un buon Natale da parte del Move to Groove. Io, Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa fine 2023 in cui hai accompagnato la rubrica del martedì, e non solo, avremo modo poi di crescere per quanto riguarda l'aspetto radiofonico e della stessa presenza nel Move to Groove. Per cui niente, io ti faccio in diretta momentaneamente, perché poi saranno ribaditi i miei più cari auguri di un buon Natale e un buon 2024. Come li ripeto? confortiamo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ai Paolo Zanardi e Paolo Onofri, che hanno collaborato costantemente da remoto e anche in presenza per la stagione, per l'annata, l'anno che sta volgendo al termine, e ovviamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1. Continueremo chiaramente con i nostri starting five, con le nostre divagazioni, ma nella quotidianità cosa si intende, almeno come noi lo intendiamo? A Bologna si direbbe è una cartola, ecco, invece hai parlato, noi facciamo queste divagazioni nel vernacolo, come nella balotta per te fare banda, invece esiste un corrispettivo, ehi, quel tipo è una gran cartola, invece nelle parti del Granducato. Così a mente... Noi usavamo, io e il mio gruppo di amici usavamo e usiamo quando ci ritroviamo, quel tipo è un tipo. Ah, un tipo. Una sorta, okay, di... È, no? Una sagoma. Esatto, è un tipo, sì, un personaggio. È un tipo, eh. Tradotto, it's a dude. Sì, esatto, no? Dude. Grande Le Boschi, in sedia. Dude. The dude. A Milwaukee c'era un'ala piccola, Marcus Johnson, che poi andrà a giocare nei Clippers. Devi sapere che Marcus Johnson è ritenuto l'atleta più vicino a Julius Irving, no? Negli sì, anni sì, 80. Grande schiacciatore, se sì, non ricordo atleta male. Incredibile, così per anni si pensava che a Milwaukee, lui giocava dei Bucks al massimo della sua carriera, il pubblico femminile andasse proprio per lui, per vedere in pantaloncini uno come Marcus Johnson. In effetti, oh, grande atleta. Ora fa il commentatore tecnico per i Bucks, non ne capisce molto secondo me, però ma diciamo che ne capiva più nel basket giocato che sì, parlato. Mi sembrava molto estemporaneo. Ora faremo i podcast ovviamente di altri suoni dedicato ad Amp Fiddler e il Move to Groove, con questo aspetto sexy, con i saluti degli angeli George McGuinness ed Eric Montreux, che vanno ad arricchire purtroppo il parquet celeste. Ritorneremo dopo l'epifania con il basket, il parquet e ovviamente l'attualità, il confronto tra passato e presente nel Move to Groove, ricordando che a breve ci sarà Lady Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, e martedì quindi il vinile del la settimana, non il vinile quotidiano, direi, con Andrea Gozza, da non perdere. 9.30, 10.30, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Malanni di stagione, caro Pietro, capisco. Il Natale arriva. Il Natale è classico e ti salta addosso tutto appena ti rilassi un attimo. Bene, care ascoltatrici e ascoltatori, l'appuntamento è a domani con il Voltiamo Pagina, Premio Pellegrino 2023 con Silvia Albertazzi. Noi avremo modo di trovarci in redazione per la colazione di domani con il Voltiamo Pagina, l'appuntamento alle ore 7. Un caloroso abbraccio, il Move to Groove vi fa gli auguri di buon anno e buon Natale. Per il Breakfast Club Letterario, a domani. Grazie Pietro. Grazie Willy. Ci vediamo anno nuovo. Ciao.